Rappo davvero su ogni casa, doppio bicchiere di succorosa, mi fa vedere sta diva doppia, sulla tre quarti da tiede rossi, cubi di ghiaccio nel frullatore, fa uscire fuori sto bibidone, beccami pieno di busta Broadway, è tardi devo tornare a Brooklyn, gin strappati pieni di buchi, cervello d'arma pieno di buchi, vestito bianco occhiali scuri, dark dark dark dappertutto, in questa merda per incassare, in questa merda per incassare, voglio comprare a mia madre casa, banconote che escono fuori dalle tasche, soldi, santa madonna proteggi il rione, bambini e vecchi fuori la parrocchia, Dio per le strade mettiti in ginocchio, fumo, mango, cuscia di cocca, tutti quanti intorno alla bilancia, 13 al tavolo fai 3 kg di pasta, voglio una pistola per ogni mio amico, perché questi infami sono pieni di invidia, perché ste puttane sono piene di invidia, amo soltanto me la metti, triplo 7, stronza sono quel Pyrex baby, e mi becchi solo con DPC, lei mi chiama Pyrex baby, sulla tre quarti dotti e de rossi, a centrocampo dotti e de rossi, sputo sangue per la click, dotti e de rossi, G-Star senza cinta, tasche sembrano incinte, continuo a tirarli su, mi cadono alle caviglie, in giro con la gang, con le piccole canaglie, sai che non puoi fermarci, non metterti davanti, dotti e de rossi perché siamo a centrocampo, gioco di squadra, la passiamo, fumo e non la passo, arrivo alto come le nuvole sul succo di zenzero, mangi MDMA non ti fa bene al cervello, parli male della gang, non fa bene alla salute, sempre in giro per la zona, se mi vedi salutami, collana d'oro giallo con me Bart Simpson sul collo, vuoi fottermi ti metto in un sacchetto da corpi, guarda il quadrante a due toni sul mio polso, brilla così tanto non so leggere l'ora, dicono che ho un problema perché fumo troppo e bevo, gli dico fatti i cazzi tuoi, io sto facendo me stesso,